Pronti per la terza ora del Sabato del Villaggio, che è quella che si trasforma in RadioTube. Abbiamo parlato di tante cose in questo Sabato del Villaggio, perché comunque, nonostante tutto quello che succede, o forse proprio per tutto quello che succede, vogliamo continuare a occuparci delle cose belle, delle cose che ci rendono la vita felice, delle cose che ci rendono felici di vivere in questo mondo e non in un altro che non ci piace. Daniele? Eccoci, et Marta Cagnola, et di Bellagio. Sì, perché questa trasmissione di solito si occupa di cose non leggere, anche serie, però non gravi. Purtroppo poi dopo ogni tanto ci ritroviamo, esatto, e ogni tanto, che sta diventando un po' il simbolo anche di questa quotidianità che irrompe nel quando la gente si diverte, come è successo sul lungomare di Nizza l'altra notte, per la verità, quando si doveva festeggiare il 14 luglio, quindi la festa della Repubblica Francese, dopo che c'erano stati fuochi d'artificio, insomma, la festa. E quello che è successo, ormai lo sapete tutti, è stato anche visto, perché questo, no? Noi raccontiamo spesso di quello che si vede, e spesso si vede il peggio. Questo era uno dei video che sono stati diffusi in queste ore, dei video che raccontano in maniera cruda e in maniera veramente dolorosa la strage di Nizza. Non parliamo spesso di noi, se non per prenderci un po' in giro, lo facciamo spesso. Non parliamo spesso del nostro lavoro, il mio soprattutto in radio, anche nella redazione di Radio 24 e non solo nella trasmissione del sabato, e quello di Daniele al giornale, in particolare nel sito del Sole 24 Ore. Eh sì, e tu eri lì. Io ero in lì, turno, alla radio, e in turno, devo dire per fare che il GR, diciamo. Devo dire che questa volta vorrei parlare di quello che è successo a Radio 24, perché secondo me racconta molto di come è cambiata l'informazione. Perché eravamo io e Anna Rita D'Ambrosio che stavamo chiudendo il giornale radio delle 24. Anna Rita vede la notizia su un sito e una notizia: è successo qualcosa a Nizza. Sì. Io le dico: nelle agenzie di stampa ufficiali non c'è niente, guardo su Twitter, Twitter comincia a dare delle notizie molto allarmanti, e io istintivamente le dico: apro Periscope, vado a vedere nel mappamondo di Periscope se c'è qualcuno che sta trasmettendo in diretta da Nizza, e su Periscope succede questo. C'è un ragazzo che dalla finestra di casa sua, mentre le televisioni cominciavano a dire che forse c'erano dei feriti, mentre i siti cominciavano a parlare di un camion in maniera molto confusa, questo ragazzo, con una freddezza data secondo me dall'impeto del momento, quello che ti fa essere, ne parlavamo anche la scorsa settimana, sì, stranamente lucido, con il suo telefonino riprendeva e contava i morti sul marciapiede. E quindi io, dalle agenzie di stampa che non davano ancora nulla, sì, dalle TV che erano molto caute, dai siti che erano ancora confusi, sono passata alle immagini di questo ragazzo che dalla finestra di casa sua diceva: guardate, 1, 2, 3, e io ho capito per quello. E poi siamo stati in diretta fino all'1:30 con Gigi Donelli, la mia fonte era esclusivamente Twitter. Ecco, ovviamente fonti affidabili, il Ministero dell'Interno francese, la municipalità di Nizza, eccetera. Io ho seguito la notizia solo sui social network. Il tempo che passa, che tu hai segnalato, tra l'informazione dei social network e l'informazione ufficiale, da noi al sito in redazione, a parte tutto il giornale, due colleghi sono subito corsi a fare il live speciale in diretta tutta la notte, Cristiana Gamba, Marco Lo Conte, poi sono arrivati tutti. Insomma, il concetto, quel tempo lì che passa, ovviamente ha una distanza rispetto alla realtà. Se sei sui social hai un contatto con la realtà più immediato, ma non è detto che quel tempo che passa sia soltanto un problema. Spesso è la ragione per cui un giornale oppure una radio oppure un sito devono fare un lavoro diverso. Perché quel tempo passa tra l'evento e l'informazione reale? Perché e questo mondo talmente imprevedibile ci costringe a essere molto più attenti nel verificare qualcosa di misterioso che arriva. Ormai quante volte, facendo il nostro lavoro, noi vediamo una lucina di notizia che si accende su un social, alla radio, in televisione, di una cosa che può essere contemporaneamente una cavolata e la più grande delle tragedie. Nella notte, a un certo punto, fumo sulla Torre Eiffel. In realtà era un incidente, esatto, successo con dei fuochi d'artificio, ma le immagini erano impressionanti. Allora, esatto, bisogna prenderle tutte con grandissima cautela. E poi devo dire una cosa che mi ha veramente sconvolto. Poi purtroppo in quel momento sei lì, stai lavorando e fai tutto quello che devi fare e apri tutti i video, perché e sono stati condivisi veramente dei video che io non dimenticherò mai, delle immagini terribilmente cruente, crude, che nessun film potrebbe eguagliare. Però in quel momento qualcuno le ha riprese e qualcuno le ha messe in rete, e io, con lo sguardo della giornalista che doveva raccontare quello che stava accadendo in diretta in un posto in cui non ero, li ho aperti per vedere, e fortunatamente poi le autorità hanno chiesto di rimuovere tutti questi video. Tra l'altro anche la televisione francese si è scusata, perché a un certo, certo, punto France 2 ha intervistato un uomo che era accanto al cadavere della moglie. In quel momento non so, insomma, poche cose sono prevedibili, come le reazioni, come anche purtroppo spesso le reazioni di chi sta lavorando. È un conflitto etico enorme quello di dire chi sono io, che ho l'opportunità di vedere, so arrivare a vedere tutto, a decidere se il mio lettore, il mio radioascoltatore, il mio telespettatore può vedere questa cosa o no, da una parte. Poi dall'altra parte è impossibile che io, per fare il mio lavoro, utilizzi delle immagini che hanno un valore personale ed emotivo per le persone coinvolte, ma per tutti, così grosso. Solo agendo si sceglie che cosa è giusto, e quando si sceglie qualcosa di sbagliato è giusto chiedere scusa, come hanno fatto. Sì, è verissimo. Soprattutto anche perché vedo in quei momenti, appunto, ti viene la lucidità e un po' la tecnica professionale, un po' come il chirurgo quando deve, però dall'altra parte però l'errore, siamo umani, l'errore c'è. E devo dire che in questi 3 anni in cui facciamo RadioTube, davvero queste riflessioni 3 anni fa non, sì, le avremmo potute fare. No, perché l'evoluzione dell'aspetto visivo di questi momenti sono, da una parte, l'aspetto pericoloso, dall'altra parte l'aspetto di opportunità del racconto. Le domande ci sono oggi, le risposte, a mio modo di vedere, alcune di queste domande ci saranno fra 3, 4, forse 10 anni. Verissimo, verissimo. Daniele, facciamo una cosa, una breve pausa, e poi ci dedichiamo ancora un po' di cose gioiose, anche un po' cretine, ma anche belle, per tutto il resto dell'ora. Certamente, dopo il traffico. Dopo il traffico, tra poco. YouTube. Aspetta Daniele, che devo lanciare, perché aspetta che riesco a prendere Squirtle. Ho visto Squirtle. Aspetta che prendo. Chi è Squirtle? L'ho preso. Squirtle. Ha preso Squirtle. Chi è? È Pokémon Go, non stai giocando a Pokémon Go? Ma non è arrivato quando? Ieri. Ufficialmente ieri, poi tanti l'avevano già scaricato. Ecco, com'è che tutti giocavano già? Sono quelle cose come che le non serie si possono TV dire, ma già c'erano. Ed è il gioco del momento. Lo so, Pokémon Go, ho letto, c'era sulla prima pagina del Financial Times il fatto che ha praticamente fatto esplodere le azioni della Nintendo. Capito? Salva 7-8 aziende, ma è un gioco. Allora, per capire che cos'è questo gioco, Pokémon, sì, Go, è la prima volta che viene a RadioTube, perché è sempre venuto al Sabato del Villaggio, quindi lo presento agli, sì, ascoltatori di RadioTube che non avessero mai seguito il Sabato del Villaggio, e lo presento anche a te. Il, sì, suo account di Twitter è @ addio e grazie per, scrive su un sacco di testate, tra cui il nostro domenicale, insomma. Emilio Cozzi, ciao Emilio. Ciao Marta, ciao Daniele, come state? Io bene, perché sono Squirtle. Libero dal gioco, lei meno, perché sta giocando. No, perché poi adesso stavo prendendo anche delle uova che sono cascate lì, perché stavo... Sì, qua, Radio 24, ci sono delle uova. No, perché ho inquadrato, davanti noi abbiamo il centro sociale, il cantiere, c'erano delle uova. Forse al centro sociale non lo sanno, c'erano delle uova di Pokémon. Molto, molto probabile, perché sono un po' dappertutto, e anzi, poi ci sono le palestre, poi ci sono i luoghi di raduno dove è possibile addestrare, allenare i Pokémon, dove è possibile farli aumentare di livello e dove è possibile poi, alla fine, oltre il livello 5, il celeberimo livello 5, confrontarsi con gli altri giocatori nella realtà. È un gioco che si gioca col telefonino, con la videocamera del telefonino, e quindi accesa. Noi vediamo il mondo reale, con il GPS, quindi siamo localizzati, ma noi nel mondo reale facciamo Google Map.

che non conosco, e farlo per un concerto, per un tour, sarebbe veramente bellissimo. Quindi per adesso questo è il mio sogno più grande, diciamo. Adesso invece il sogno soprattutto delle ragazze, devo dire, soprattutto il sogno delle femmine, adesso è incontrare Luca. Quindi in questi come all'ingresso qui del Palazzo del Sole. È già stato intercettato. Succede, è già stato c'è chi piace come me Luca, sì, e infatti, che ha vinto, c'è chi ha successo. So che non riuscite. Dobbiamo fare una collaborazione su YouTube allora. Ma magari mi aiuti? Ma allora forse facciamo una sfida, chi fa il vlog migliore. No, io ho già fatto un pezzo di video che ho già in mente di mettere il mio prossimo, però devo imparare una cosa successiva, perché mi hanno detto non basta fare un vlog con la telecamera che ti guarda, okay, devo fare un minimo di montaggio, quindi sì, proverò la prima volta con il video che ho fatto mentre tu canti. Sei il mio mentore, e fra poco devo scaricare l'app per il montaggio. Ma posso dire che tu hai avuto già Rovazzi e Luca Circovani che ti... Sto imparando. Ma il prossimo chi è? Spielberg, che ti spiega come girare. È sulla musica che proprio anche venisse Mozart, dei miglioramenti non li posso ottenere. Vabbè, insomma, ringraziamo Luca per essere io stato con noi. Grazie, sei un grande, davvero. Grazie mille, spero di rivedervi presto. No, beh, il prossimo anno, adesso Radio Tube vediamo. Però insomma prossimo anno alla grande ancora. Grazie mille a tutti. Tu hai ancora più forte. Grazie Luca, a presto. Ciao, ciao. Te lo ricordi il balletto? Ma come me lo ricordo? Ma te l'ho chiesto io di ascoltare questa canzone. Ma gola. Sai che noi allo stadio facevamo Nicola Berti vola. Beh, devo dire vintage anche Nicola. Non lui vintage, lui no, che è ancora un bel ragazzo. Un gran bagai, ma soprattutto... Però sto dicendo che insomma, Nicola Berti stiamo parlando un po' anni. Ma no, ma 90. Era per dire che quando una canzone è così di successo poi viene usata negli stadi, poi salutiamo, viene usata... Lorella, che è una grande Cucarini, ascoltatrice di Radio 24. Grande, ciao Lorella, se ci stai io ascoltando. Io ero innamorato di lei. E tra che l'altro... bella, ancora più bella di prima, guarda, spettacolare. Bellissimo. No, perché mi divertiva questo fatto che l'anno prossimo la Rai è proprio un revival per noi quarantenni. Allora, sono veramente... Ma proprio la grande innovazione. Allora, me li sono segnati. L'elenco della nuova stagione, no? I nomi sono... Allora, c'è Eter Parisi, c'è Lorella Cuccarini, c'è Pippo Baudo, Gaddino, no, Gad Lerner, torna Rischia Tutto, eppure Santoro. E vabbè, siamo 20 anni fa uguale. Ma è fantastico, io mi sento subito più giovane. Ma non doveva essere una grande innovazione? Io mi sono comprata lo zainetto tu colorato, adesso perché vado anche a comprare una passione per Uniposca. I palinsesti in genere però... Oh, che belli, bene, abbiamo parlato anche con Andrea Biondi. Ma perché il palinsesto ti dà un po' il senso del tempo, delle scelte. Del tempo che non passa in Italia, però... Tutti noi, Pippo, non ce lo ricordiamo per Domenica Inn. Sentiamo Pippo. Qual è la ragione? Dammi un bacio. Ah, e Cristian Boldoni ha scelto il... Ma ti rendi conto? Ti ricordi? Fatemi passare. Lo salvo io. Fatemi passare. Lui dal palco. Sì, lui dal palco scende. Sì, era Sanremo. Sanremo sì, 850. Sì. Il suo dodicesimo sarà stato, non lo so. Era un bel Sanremo di qualche annetto fa. Era un Sanremo di qualche annetto. Ma che Domenica Inn farà, Baudo, secondo te? Non lo so, sono molto curiosa. Molto diversa dalle sue o... Ma poi lui quante ne avrà fatte? Non so, non tantissime magari. No, ne ha fatte. Adesso io non sono bravissima con numeri, però ne ha fatte abbastanza. Devo dirti che però quella che a me incuriosisce di più è proprio l'idea Parisi Cuccarini insieme, perché devi loro vanno sapere insieme, che più o meno quando sono stati presentati i palinsesti Rai più o meno si sapeva già tutto, cioè a parte Baudo che è stato svelato dopo alla presentazione del 28 giugno si sapeva già erano tutto, erano stati spoilerati, ma Parisi e Cuccarini no. Quindi quando il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano ha detto, e poi un show, prima serata, Parisi, Cuccarini, il brusio di ammirazione della platea di giornalisti, appunto 30-40 anni, tutti... Tra l'altro Fabiano non era ancora nato quando c'erano... Fabiano è del 76, credo, quindi appunto, è giovanissimo. Quindi, ho capito, quindi questa è stata la grande sorpresa. Secondo me quella è invece la più grande sorpresa di Rai 1? Non lo so. Il fatto che la prima serata inizia alle 21:15. Cioè, oltre, va un po' oltre no, o va un allora, po' prima? Allora, ahimè, io adesso registrerò i pacchi tutte le sere, perché io arrivo sempre verso le 9:15 a casa la sera. Ah, i pacchi... I pacchi finiscono prima. E quindi hanno anticipato l'inizio della prima serata. Ebbene sì. Sono favorevole, vedi? Bravi, una buona idea. Perché spingerci a fare le ore piccole? Quindi per la prima la vera innovazione è prima serata che comincia presto, 21.15, non alle 21.40. E poi... trasmissioni del 1970-80. No, no! Però bello, però dai. Belle, però certo. Belle, ma belle. Perché noi siamo fatti così, noi italiani? Come facciamo a innovare se siamo così ma affezionati? Ci sono anche delle cose della che nostalgia. Innovano poco a poco, però è un momento in cui bah, un sì, po' abbiamo bisogno di rassicurazioni. No. E poi l'altra novità, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato anche la scorsa settimana, il fatto che ci saranno prime serate più corte come quella giusto. Del talk politico che non andrà per tre ore ma un'ora e mezza e via. Abbiamo parlato di cose serie. Abbiamo parlato di cose serie. Abbiamo, ascoltato della buona musica e io sono pronto abbiamo per il conosciuto terzo un vlog. Giovane pazzesco. Sono veramente ma poi come fanno a essere così saggi? Io sono stupito di questo. Non si prendono nemmeno troppo sul serio. Perfetti, fantastici, perfetti. Vorrei fantastici. Avere 22 anni anch'io, anche per tante altre ragioni. Hai finito però... il tempo a nostra disposizione per questo Radio Tube. Ci vediamo sabato prossimo. Sì, alle 15 per il sabato del villaggio con Marta Cagnola e alle 17 per l'ora del sabato del villaggio rovinata con me. Ringraziamo ciao. Anche Cristian Goldoni e Valeria Bernardi, al prossimo sabato.